Le confessioni di Sant'Agostino. Introduzione. Le confessioni sono un'opera di 13 libri e narrano la storia di un giovane retore africano di nome Agostino, impegnato a cercare la verità ad ogni costo, il quale, dopo un lungo cammino segnato da profonde interruzioni, la scopre e ne rimane abbagliato. Alla luce di questa verità, il giovane ripensa l'intera sua vita e la racconta, convinto che essa potrà essere letta vedendovi rispecchiata la vita di ogni uomo. Agostino è stato capace di creare l'equilibrio tra l'interiorità e l'intenzionalità della persona, che gli permette di attingere la ragione stessa del dialogare, e cioè l'amore. Nasce a Tagaste, in Algeria, il 13 novembre del 354. In questa città vive fino a 17 anni. Poi si trasferisce a Cartagine per terminare gli studi universitari. Laureatosi, lascia l'Africa e si trasferisce a Milano, dove lo raggiungono la madre e la giovane donna, madre di suo figlio Adeodato e del figlio stesso. A Milano incontra una chiesa molto attiva e profondamente unita intorno al suo vescovo Ambrogio, ed è qui che egli rivede i suoi pensieri sulla chiesa e frequenta il circolo retto dal colto vescovo. Nel frattempo però si accosta alla Chiesa Cattolica, sostenuto da Ambrogio, che lo aveva aiutato a capire come leggere le scritture. Agostino è ormai sicuro e la simpatia verso la Chiesa Cattolica si tramuta in scelta. È l'autorità divina che sostiene la sua fede. Lascia l'insegnamento e con la madre Monica ed il figlio Adeodato ed alcuni amici si ritira in solitudine per prepararsi al battesimo, pregando i salmi, studiando e lavorando. La notte del sabato santo, tra il 24 e il 25 aprile del 387, riceve il battesimo dalle mani del vescovo Ambrogio. Ora è tutto pronto per il ritorno in Africa. A Ossa Tiberina, a breve distanza dal battesimo, ha una mirabile estasi con la madre. Poco tempo dopo, in quella stessa città, muore Monica, ed Agostino si ferma a Roma alcuni mesi. Ad agosto del 387 si imbarca per l'Africa e lì inizia la sua opera di pastore di anime e la stesura delle opere che ci informano del suo lavoro apostolico, del suo progresso spirituale e del suo impegno a studiare la parola di Dio, cibo spirituale per lui e i suoi fedeli. Ed è a Tagaste, la sua città natia, che scrive le Confessioni. Le Confessioni è l'opera più famosa e più letta dell'intera opera agostiniana. Agostino narra della sua vita solo quello che serve al suo scopo. Si tratta infatti di un'autobiografia dove i fatti diventano eventi ed è occasione di un'analisi interiore fatta a cospetto di Dio. L'autore, al termine della sua vita, scrive nelle Ritrattazioni: «So che le mie confessioni a molti fratelli sono piaciute e piacciono molto. Per quanto mi riguarda, hanno esercitato azione su di me mentre le scrivevo e continuano a esercitarla quando le leggo». Le confessioni furono molto lette nel Medioevo. Il lettore più famoso fu il Petrarca. Egli confessa che le portava con sé come un vademecum e ne consigliava la lettura ad altri. Anche oggi ci sono molti lettori studiosi delle confessioni, ed è vero che in esse gli uomini di oggi vi si possono rispecchiare e rileggervi la propria vita. Sant'Agostino dice che i 13 libri delle mie confessioni lodano Dio giusto e buono per i miei mali e per i miei beni, e verso di lui sollevano la mente e gli affetti degli uomini. L'intento principale di Agostino è dar lode a Dio. Le confessioni sono prima di tutto una confessione di lode, poi una confessione dei suoi peccati, ed infine una confessione di fede. L'idea che spinse Sant'Agostino a scrivere le Confessioni fu una forza, un desiderio intimo di aprirsi a Dio. Chi lode l'uomo peccatore che è stato salvato? A lui spetta riconoscere il proprio peccato e lodare la misericordia di Dio. Le Confessioni non sono tanto un'opera di uno scrittore, quanto una manifestazione dei più intimi sentimenti di gratitudine, di pentimento e di perdono.